alle forche! E l'altro prigionier! Cavalier Cavaradossi! È tutto pronto, eccellenza! Dio m'assisti! Aspetta! Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Quest'uomo fido provvederà. Imma sicura! L'ordine che gli darò voi qui presente. Spoletta, Lodi! Ho mutato d'avviso. Il prigioniere si è fucilato. Attendi! Facendo del conte Palmieri un'uccisione simulata come offende del Palmieri hai ben compreso voglio avvertirti io stessa e sia vederai basso vada allora guarda